Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che daremo aggiornamenti e anche una lunga diretta sul voto del Senato. La discussione è chiaramente ancora in corso, il voto è previsto a spanne tra 10 minuti, un quarto d'ora. Tra l'altro l'Aula ha respinto le questioni pregiudiziali, come vi ha ricordato il nostro GR, e le richieste di sospensiva presentate dal centrodestra. Ma l'altra novità del giorno è l'anticipazione del Consiglio dei Ministri. Doveva essere alle 15, è iniziato con un'ora e mezza circa di ritardo. Consiglio dei Ministri in cui dovrebbero arrivare, stanno già uscendo alcune agenzie, novità sul, o meglio conferme più che novità sull'IMU. Deve infatti varare il decreto legge concernente l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. Perché la Banca d'Italia? Perché sulle rivalutazioni delle quote il governo aspetta un gettito importante, ma tra l'altro poco fa sono uscite agenzie per cui le banche, assicurazioni, fondazioni, investitori istituzionali, soci della Banca d'Italia avranno un tetto al 5% del capitale, questo è una bozza del testo, il testo da 24 mesi ai soci per ridurre la quota in eccesso. E i partecipanti del capitale della Banca d'Italia potranno ricevere esclusivamente dividendi annuali a valere sugli utili netti per un importo non superiore al 6% del capitale. La Banca Centrale Europea, intanto, chiamata a dare un parere consultivo sulla rivalutazione delle quote delle banche dentro Banca d'Italia, non ha ancora chiuso la sua procedura. Perché ne parliamo? Perché la Banca d'Italia è partecipata come azionista delle banche stesse. Nel caso specifico Intesa San Paolo al 30%, Unicredit il 22%, e poi le Generali il 6%, la Cassa di risparmio di Bologna il 6% della Banca d'Italia, l'INPS il 5% e via così, la Carige il 4%, BNL il 2,8%, Monte dei Paschi il 2,5% e poi altre banche minori. Il governo vuole rivalutare di circa 5, forse 7 miliardi il valore delle quote che in questo momento le banche hanno dentro Banca d'Italia, e questo implica automaticamente anche un rafforzamento del patrimonio, ma soprattutto un'operazione che genererà per le casse dello Stato 1,5 miliardi di gettito in più, che serve per trovare la copertura per la seconda rata dell'IMU, non totale ma insomma una parte della copertura. Ci sono dei problemi però, perché l'operazione rischia di mettere in difficoltà l'indipendenza della Banca Centrale Italiana, della Banca d'Italia, dai soci privati, che per di più in pochi anni verrebbero ripagati dal flusso di dividendi, quindi ripagherebbero l'imposta una tantum che il governo applicherà. Questo nel giorno in cui la Banca d'Italia fa sapere che di tutti i problemi che hanno le banche italiane, c'è anche quello della composizione dei loro consigli di amministrazione. Dice la Banca d'Italia, sono sostanzialmente vecchi, maschilisti e piuttosto provinciali, lo dice la Banca d'Italia, non lo dico io, con una capacità mai troppo approfondita di valutare professionalità e reputazione dei propri membri. Le stanze dei bottoni delle banche italiane, secondo quanto emerge dall'analisi della Banca d'Italia, mostrano la presenza di donne praticamente inesistente, l'età media dei consiglieri supera i 60 anni, questo per dire che non c'è solo un problema di casta, rottamazione nella politica. A me non piace il tema dell'età, perché dicevamo, se uno è incapace da giovane è incapace anche da vecchio e viceversa. Però è anche vero che un po' di ricambio nei consigli di amministrazione delle banche italiane servirebbe, e anche delle fondazioni bancarie. So che si sono molto arrabbiati in fondazione Cariplo, ma non c'è nessun problema, non è una fondazione specifica. Facciamo solo notare che il ruolo delle fondazioni, da un lato, e dall'altro anche la presenza dei componenti è un po' ingessata, si può dire, o bisogna criticare solo la politica perché viene più comodo e più facile. La Banca d'Italia mi sembra assolutamente d'accordo con questo, dice l'età media dei consiglieri supera i 60 anni e pochissimi di essi hanno respiro internazionale. Il 93% sono maschi, in Europa sono l'86%, nessuna donna è presidente, l'età media è 60,4 anni, contro una media più bassa in Europa, il 70% dei consiglieri è laureato, rari i consiglieri con esperienza internazionale, il 40% dei componenti dei consigli di amministrazione delle banche hanno almeno altre 5 cariche in varie società. E quindi ci sono problemi, dice la Banca d'Italia, anche sul fronte dell'onorabilità. Nei risultati delle autovalutazioni la presenza di condanne penali per reati finanziari, sanzioni interdittive o coinvolgimenti in procedure fallimentari non vengono considerati adeguatamente ai fini reputazionali, dice sempre la Banca d'Italia. Come dire, siete un po' troppo leggeri nel valutare quello che è il pedigree, la fedina, non penale, ma la fedina in generale di un membro del consiglio di amministrazione. Quindi vecchi maschilisti e piuttosto provinciali. Nel frattempo, parlando di banche, oggi l'Unione Europea ha dato via libera al piano per il Monte dei Paschi di Siena e quindi spostiamoci anche sulla borsa. La Commissione è soddisfatta, mitigate le distorsioni create dagli aiuti di Stato. Passiamo subito alla borsa, ripeto, in attesa di fare poi un lungo aggiornamento diretta dal Senato. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. La borsa bene oggi, soprattutto il Banco Popolare più 6%, Mediobanca più 2,5% come UbiBanca. Il 2,20 lo guadagna Atlantia, l'1,80 Prismia, l'1,70 la Popolare Emilia Romagna e Buzzi Unice, ma anche Generali, l'1,5 il rialzo di Tenaris e di Tods, ma anche di Unicredit, l'1,30 quello di Mediaset e di Fondiaria Sai, ma anche di Exor. Recupera qualcosa, ma niente rispetto ai cali pesanti dell'ultima due sedute del Monte dei Paschi, più 0,33%, negativa Salvatore Ferragamo dello 0,90% e Steamark Electronics dello 0,70%. L'indice complessivamente a Milano va bene, più 0,90% contro Francoforte che fa più 0,60%, Parigi più 0,50%, Londra più 0,33% e l'America più 0,20%. Vedo alcuni sms anche sulla legge di stabilità approvata ieri in serata con 171 sì e 135 no. Ne parleremo più avanti. Le modifiche portano la manovra da 12 miliardi e mezzo a 15 miliardi. Ricordo le novità delle ultime ore: la deducibilità dell'IMU sui capannoni fino al 30%, la sperimentazione del reddito minimo attraverso un prelievo sulle pensioni d'oro. E ne abbiamo parlato diffusamente ieri, la nuova Trise, che è nata già morta, la tassa sulla casa, viene rimpiazzata dalla IUC, imposta unica sugli immobili, e gli sgravi IRPEF vengono invece concentrati sui redditi sotto i 35.000 euro, con un beneficio massimo però di 230 euro all'anno tra i 15 e i 18.000 euro, e poi stanziati 350 milioni per i malati di SLA. Sono 75 milioni di euro aggiuntivi per l'assistenza domiciliare, mi sembra il minimo, anche perché al di là delle manifestazioni da più parti è stato dimostrato come il costo per lo Stato sia inferiore se il malato di SLA viene assistito con degli aiuti però economici in casa piuttosto che nella struttura ospedaliera, oltre che essere un disagio di gran lunga superiore dal punto di vista personale, che se volete è la prima cosa prima ancora dei costi, ma c'è anche un beneficio da un punto di vista dei costi dello Stato. Riprendiamo le notizie invece che arrivano dall'estero. Fra i rischi per la stabilità finanziaria dell'Eurozona c'è il possibile ritorno sugli stress dello stress nei mercati per il debito sovrano. Ora, è interessante questo perché Lo ha detto il vicepresidente della Banca Centrale Europea, Victor Constancio. Continuano ad esserci miglioramenti in tutti i paesi sotto stress, ma resta del lavoro da fare per ridurre il deficit e il debito. Però Constancio aggiunge c'è un rischio di un ritorno di stress sugli spread. Ora, siccome mi sembra che abbiamo già abbastanza problemi in questo paese in generale, un allarme del genere risveglia dal suo letargo autunnale il nostro gufo, perché voglio dire, ma come si fa a dire c'è un rischio di un ritorno di tensioni sugli spread senza spiegare perché, quali elementi ha per dirlo? Oh, fai il vicepresidente della Banca Centrale Europea, mica passavi per caso. Gufo a Constancio. Il premier britannico David Cameron, che dice una cosa che può essere anche condivisibile, ma fa impazzire perché quando tocca la Gran Bretagna allora se ne accorge anche lui. Che cosa ha detto? Ha detto che bisogna limitare la circolazione, la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, perché è preoccupato delle ampie migrazioni registrate in questi ultimi anni soprattutto dai paesi dell'est dopo il loro ingresso nell'Unione Europea. Bisogna ponderare di più i movimenti. Perché? Perché arrivano in Gran Bretagna lavoratori scarsamente qualificati che sottraggono risorse al welfare, e le preoccupazioni nascono dal fatto che dal prossimo 1 gennaio i cittadini di Romania e Bulgaria avranno lo stesso diritto di lavorare in Gran Bretagna degli altri cittadini dell'Unione Europea. Sì, però non è che vale, Cameron, io capisco che in Inghilterra c'è il vecchio detto nebbia sulla manica, il continente isolato, ma non è che quando tocca la Gran Bretagna ce ne dobbiamo occupare tutti in Europa, e finché poi l'Italia parla delle stesse cose, degli stessi temi. Noi abbiamo il problema non solo dei lavoratori dentro l'Unione Europea, ma anche degli sbarchi sulle nostre coste. Non ricordo tutta questa passione di Cameron per quello che capita nelle coste italiane. Allora decidiamo, o siamo tutti in Europa, oppure torniamo al detto appunto che se c'è nebbia sulla manica, il continente è isolato. Parleremo più avanti anche dell'accordo raggiunto in Germania, le larghe intese, cioè in Italia le intese si restringono perché esce la neonata o rinata Forza Italia, e invece in Germania le fanno. Accordo fra i cristiano democratici di Angela Merkel e i socio-democratici per la formazione di un governo appunto di larghe intese, questo anche perché la Merkel aveva ottenuto una maggioranza sì ma relativa, il 41,5%, e mancavano 5 seggi. Tra i punti dell'accordo l'introduzione del salario minimo, di pensioni più generose, del pedaggio autostradale solo per gli stranieri e la possibilità della doppia cittadinanza. Beh, il salario minimo e le pensioni più generose forse potrebbero andare in quella direzione di aumentare gli investimenti e le spese in Germania per riequilibrare la forza tedesca dell'export, diciamo riequilibrare in senso europeo. L'obiettivo della grande coalizione, dice Angela Merkel, è la piena occupazione. E ripeto, ne parleremo più avanti. Ancora due notizie in breve per quello che riguarda l'Italia. Il PIL pro capita al sud si è quasi dimezzato rispetto al centro-nord. Il dato dell'Istat sul 2012, temo che il 2013 sia anche peggio, perché il PIL pro capita prodotto dal sud, nel sud del paese, è di circa 17.400 euro, è il 40% in meno rispetto a quello prodotto nel nord del paese, anzi in media, perché nel nord-ovest siamo a 31.000 euro, nel nord-est a 30.600 euro pro capite, 28.000 euro nel centro, e poi al sud si precipita a 17.000 euro, che vuol dire che il PIL pro capita al sud è quasi la metà di quello registrato nel resto del paese. Ora c'è chi dice che io sono come i sovietici, non voglio sentire cattive notizie, ma a me sembra che ne stiamo dando anche troppe di cattive notizie. Il gufo non l'abbiamo dato perché era una cattiva notizia. Il gufo lo diamo perché quando ci sono frasi allarmistiche, apocalittiche, millenaristiche, non giustificate. Quando queste frasi le dice chi ha un ruolo e responsabilità, non chi passa al bar a bersi un cappuccio, e nel caso specifico era è il vicepresidente della Banca Centrale Europea, beh, forse o mi spieghi perché vi aspettate nuove tensioni sullo spread e un nuovo attacco alla sostenibilità dei debiti dei vari paesi dell'area euro, oppure stai zitto che è meglio delle volte, no? Allora, ancora non sta arrivando il voto al Senato, noi andiamo avanti con la nostra scaletta, ripeto, scaletta oggi molto molto flessibile. Una nota la devo dare, anzi no, vedo con molta richiesta, volete la base che abbiamo usato ieri, save me, salvami, salvami anche da certi sprechi ma anche da certte previsioni. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Commercio oggi ci anticipa il Natale, per modo di dire, nel senso che stima che sarà un Natale dimesso per il 70% degli italiani. Diciamo che la notizia sarebbe stato l'opposto, immaginavamo tutti che dopo un 2013 peggiore del 2012 non ci fosse tutta sta voglia di spendere per Natale. Il problema vero è la quota, la quota è raddoppiata in 5 anni, cioè da quando è scoppiata sta cavolo di crisi. Con tutte le sue evoluzioni, il numero di italiani che dichiara nel sondaggio del Centro Studi Confcommercio di fare un Natale dimesso e quindi insomma al risparmio è passata dal 35% al 70%, ma mi sembra che i problemi del paese siano come sempre altri. C'è comunque il fatto che per un italiano su due la ricorrenza del Natale resti gradita e necessaria. Ora ho capito, ma che rapporto è? Uno spende meno, non è che è colpa del Natale se spendi meno, o devi dire che Natale è una festa che non vuoi più. Resta gradita e necessaria perché vai anche in vacanza, respiri, stai con la famiglia, stai con i parenti. Ho capito, però... Ma cosa vi aspettavate, che dicessero che bisogna abolire anche il Natale? La torta delle tredicesime, questa sì è una buona notizia, sarà leggermente più ricca quest'anno, 39,7 miliardi il totale, per 1.300 euro previsti di consumi complessivi a dicembre, 18 euro in più a testa rispetto al 2012. La Coldiretti però, che come ogni anno fa la Christmas Survey 2013, ma perché non la chiamano in italiano il sondaggio di Natale? Boh, fa figo dire Christmas Survey. Comunque, 6 italiani su 10, il 58% ritengono di avere minore potere d'acquisto. Anche qui, dov'è la notizia? Il 56% degli italiani ritiene che la situazione economica peggiorerà, contro il 41% degli europei, anche se è aumentata notevolmente la percentuale degli italiani che si aspetta un miglioramento nel 2014. Allora, un attimo solo, se mi è bastata la base, perché sto vedo che c'è il voto al Senato. Sull'ordine dei lavori c'è Compagna sull'ordine dei lavori. Prima c'è il senatore Compagna, dopodiché facciamo una. Ok. L'ha chiesto il senatore Compagna. Prego, senatore Compagna, vai. Allora, mentre il senatore Compagna interviene, noi riprendiamo, perché stiamo cercando di capire anche il Presidente del Senato Grasso, sembrava fosse pronta la votazione. Comunque, chi è che diceva il bello della diretta? Boh, lo vorrei al posto mio oggi. Dicevo, mentre gli italiani sono alle prese con un Natale qui, se tutto va bene, spenderanno come l'anno scorso, è arrivato oggi l'elenco delle spese del governatore del Piemonte Roberto Cota. Allora, a me dispiace sta cosa, però... Siccome c'è un'inchiesta che coinvolge praticamente più di metà del consiglio regionale piemontese, andiamo a vedere un po' questa cosa. Andiamo a vedere un po'. Da dove inizio? spremute, sigarette, polmo, l'azzurre, tre coperti da Celestina ai Parioli, cioè, ristorante ai Parioli di Roma, il 14 aprile 2011, sei coperti al ristorante al Duello lo stesso giorno, ma quanto mangia? Ancora a Roma, 4 kg di pasticceria a Torino, cinar, grappa e coppa mista di gelato, una domenica notte, due degustazioni di tartufi da Italy, 4 pacchi di polmone azzurro, tutto messo in nota spese. Ma perché anche le sigarette vanno in nota spese? Cioè, anch'io fumo purtroppo, ma non è che posso mettere in nota spese le sigarette. Cioè, boh, e siamo in un gruppo privato, per cui. Comunque, vabbè. Un libro antico da 200 euro, un regalo di nozze da 380 euro per rappresentanza all'assessore Michele Coppola. Cravatte, argenteria, un caricabatteria, deodorante, spazzolino, Marlboro da 20, una cornice, una valigia, un DVD, Chipster, Taralli, M&M's, arachidi, quattro coperti al Legal Seafood di Boston, 110 euro alla taverna antico Agnello di Novara, 22 coperti da Celestina e Parioli, con 5 ricevute diverse lo stesso giorno, ma nemmeno sapete farlo. 5 ricevute diverse lo stesso giorno, io capisco la fame, ma. E poi il 20 aprile 2011, 9 pasti con 3 scontrini fra Roma, Torino e un bar dell'aeroporto. Incredibile l'ammontare di calorie. Totale 25.400 euro messi a rimborso senza giustificazione. E poi la Guardia di Finanza cosa ha fatto? Ha controllato i tabulati telefonici e gli scontrini. E questa è bellissima però, eh. Perché è venuto fuori che in 115 casi... Qualcuno si ricorda Minzolini? In 115 casi Cota non era dove si è registrata la spesa, cioè il suo cellulare da un'altra parte. Allora, o l'ha prestato qualcuno 115 volte, o ha un dono dell'ubiquità pazzesco, per cui o presta la sua carta di credito a qualcuno, non lo so. Non lo so, ma com'è possibile che 115 volte la tua carta di credito era da una parte, e lo scontrino pure, e il tuo telefonino da un'altra? Strano, no? Anche perché Cota dichiarava di essere nel posto in cui ha effettuato la spesa, fosse lo spazzolino, fosse la sigaretta, fossero i caricabatterie, i taralli, il cinar, la grappa, la coppa mista gelato. Ma c'è una, allora, l'unica possibilità è che vi sia un altro Cota, un doppione. Come si chiamava quel sito che poi è fallito, in cui c'era Second Life? Ecco, qui c'è un caso di Second Life palese, qualcuno che va in giro dicendo di essere Cota, o col suo telefonino o con sua carta di credito. Comunque, sono 13.000 le pagine dell'inchiesta sul Consiglio regionale piemontese, che parlano di 1.800.000 euro di denaro pubblico speso illecitamente. Sono solo le note spese che, secondo gli inquirenti, Guardia di Finanza e PM, non sono giustificabili. Ristorante, viaggio, alberghi, cibo, chilometri gonfiati, ma anche libri scolastici e le ricariche telefoniche alla figlia del consigliere Antonello. Non riesco a leggere la notizia perché adesso vi dico anche chi. €4.000 per il telepass del leghista De Magistris. Fiori, giochi, CD, il noleggio di un traghetto e complementi d'arredo dell'assessore Massimo Giordano. Il servizio catering con gelato per la festa della Lega Nord a Moriglione, chiesto e ottenuto dal consigliere Federico Gregorio. I 344 euro in gioielleria più la macchina fotografica e il televisore LCD dell'assessore Elena Maccanti. Giocattoli e stampe antiche per Michele Marinello. Ricariche telefoniche per la moglie del consigliere Paolo Tiramani. E ancora la manutenzione dell'auto di famiglia, cioè saranno anche piccole spese, ma fanno una certa impressione. Il consigliere Franco Mario Botta di Fratelli d'Italia ha speso €41.000 di ristoranti, €12.000 investiti da Olympic. Cos'è Olympic? Qualche piemontese me lo scriva. E poi €2.000 in profumeria, ed è quello che ha scatenato la rissa in consiglio regionale, però una rissa molto profumata, evidentemente, una rissa di senza alcun afflore. Per il suo incarico politico, perché questo mi manda in bestia, fossero persone non abbienti, ha ricevuto solo a giugno 2010, no? Caro consigliere Franco Maria Botta, lei ha ricevuto 10.860 euro netti di stipendio e mi va a caricare €2.000 in profumeria. Eccolo là. Allora, il consigliere Antonello Angeleri, che ha pagato con soldi pubblici pure la ricarica telefonica della figlia. con quello che leggiamo in giro, stia attento Angeleri, perché queste ragazze qua con le ricariche telefoniche sono di tutti, ce la carica pure a noi. Mamma mia, sì lo so, alcuni dicono che probabilmente hanno clonato la carta di credito di Cota, anche secondo me non è possibile che uno spenda 115 volte una carta di credito in un posto in cui fisicamente non è, perché il suo telefonino è dall'altra parte. Basta, basta, basta. Minuti, stanno votando la nona mozione adesso al Senato, quindi ci siamo. Sul voto al Senato non posso rispondere a tutti gli sms, alcuni dicono che sono uno schiavo di Roma, ladrone, un attacco sconsiderato alla Lega. Secondo me, se la Lega non voleva essere attaccata, non c'è solo la Lega però in Piemonte, bastavano caricare 2.000 euro di profumi, forse aiuta. Altri dicono che sono acido perché ho male alla gamba. Sì, guarda, fosse il problema la mia gamba, avremmo risolto molti problemi del paese. Il problema è che qua continuano ad arrivare notizie di questo genere e, ripeto, sono d'accordo, se posso dire una cosa forse impopolare, sono d'accordo con chi dice dà più fastidio la spesa per la ricarica della figlia. Ecco, ci siamo però col voto al Senato, un attimo solo. Di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato subentrante, autorizzo la stessa giunta a convocarsi. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni pubblicate nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno della prossima seduta è alle ore 9.30 di domani, 28 novembre, discussione di mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia. Alle ore 16 interrogazioni. Vabbè, intanto finisco il concetto. La seduta è tolta. Allora, finisco il concetto e poi adesso riprendiamo i nostri inviati e i nostri inviati al Senato. Dà più fastidio vedere caricare in nota spese, far pagare i contribuenti delle volte 50 euro per la ricarica del telefono, i 1.000 euro per il profumo, i giocattoli, le stampe antiche, piuttosto che il ristorante, anche se di valore più alto, perché uno può immaginare che nel ristorante ci sia anche un'attività istituzionale. Per cui, allora, adesso ci colleghiamo con il Senato, dove finalmente abbiamo problemi di linea. Ecco, grazie Elisabetta Fiorito. Allora diamo la notizia che adesso vedo anche dalle agenzie. Prego Elisabetta, vai. Allora, il Senato ha bocciato gli ordini del giorno, i 9 ordini del giorno contro la decadenza di Silvio Berlusconi, e quindi Silvio Berlusconi è di conseguenza decaduto da senatore, non è più senatore, non è più parlamentare dopo 20 anni o più di 20 anni di attività politica. Sebastiano, questo è il dato politico della giornata, non c'è stato un vero e proprio voto, ma sì, ci sono siamo rimasti, stati dei voti. Siamo rimasti infatti anche noi un po' spiazzati, sai, difficile quando sei in diretta, però perché c'erano 9-8 voti in precedenza e poi è arrivato il Presidente del Senato Grasso ad aggiornare la seduta domani. Raccontaci le 9 votazioni e anche come vi sei arrivati, Elisabetta. Sì, praticamente sono stati degli ordini del giorno presentati da Forza Italia contro la decadenza di Silvio Berlusconi, cioè contro le decisioni della Giunta per le elezioni. Il momento che tutti questi ordini del giorno, 9, sono stati respinti dal Senato, valgono le decisioni della Giunta, ovvero la Giunta per le elezioni, ricordiamo, aveva votato per la decadenza di Silvio Berlusconi. Quindi di conseguenza automaticamente Silvio Berlusconi non è più senatore, appena sono stati respinti tutti gli ordini del giorno. Se Forza Italia non avesse presentato gli ordini del giorno, Berlusconi sarebbe decaduto senza queste votazioni, comunque automaticamente. Quindi no, ho capito bene, è stato molto chiaro, cioè l'aver respinto tutte le 9 le volte ha di fatto fatto passare quello che era già stato deciso dalla Giunta del Senato, quindi sì, la decadenza di Berlusconi. Ecco perché non c'è stata una votazione così netta nel finale e si sono susseguite una dopo l'altra. Resta in collegamento con noi, vorrei lasciare la linea al traffico adesso, massima brevità per favore oggi anche colleghi del traffico, e poi di nuovo in diretta con te, e cercheremo anche di capire che cosa capita adesso a Silvio Berlusconi da un lato, ma anche diciamo al governo dall'altro, visto che oggi le due novità sono una, appunto il voto al Senato, ma l'altra anche l'anticipazione del Consiglio dei Ministri che è iniziato intorno alle 16 e deve valutare anche le iniziative e far passare il decreto legge sull'IMU. 17:48 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, da pochi minuti decaduto Silvio Berlusconi come senatore, Elisabetta Fiorito resta con noi perché vorrei un racconto anche della giornata, però stiamo cercando di ritracciare anche l'altra collega di Radio 24 della Reazione Romana che sta seguendo invece la manifestazione che si terrà poi pro Berlusconi davanti a Palazzo Grazioli. Alessandra Schepisi, ciao anche a te. Sì, ciao Sebastiano. Allora, come è stata accolta la notizia? Perché ci sono già delle persone davanti a Palazzo Grazioli. Sì, in realtà il sit-in è terminato già da un po', quindi la notizia è arrivata quando i manifestanti hanno cominciato ad abbandonare qua via del plebiscito. Ha parlato prima Berlusconi ha parlato prima che si votasse al Senato, di fatto, come sappiamo, certo, un voto scontato, e aveva detto una giornata amara, una giornata di lutto, ha detto io comunque non mi ritiro, io resto qui e vado avanti. Dunque in questo modo aveva come dire, sintetizzato il suo stato d'animo, le sue intenzioni future, chiamando poi il popolo, diciamo il suo popolo, alla mobilitazione, esortando ad andare avanti, poi ha fatto una durissima requisitoria contro la sinistra, contro i magistrati che lavorano per mandare la sinistra al potere. Ad ascoltarlo, circa 2.000 manifestanti, secondo gli organizzatori 20.000, adesso come ripeto in questo momento si tratta di poche centinaia di persone, c'erano anche i parlamentari, i deputati di Forza Italia sotto il palco, e tante le persone anche venute da varie parti d'Italia con i pullman. Ci sono state, la manifestazione è stata diciamo sostanzialmente pacifica, a parte alcuni sì, manifestanti che si sono infiltrati, che hanno tentato di disturbare. Va bene, allora Alessandra, per ricostruire anche alcuni dei passaggi principali dell'intervento di Silvio Berlusconi e poi tornare a parlare con Elisabetta Fiorito che ci racconterà di nuovo come si è svolta la votazione al Senato, poi con Raffaella Calandra invece faremo anche adesso le prospettive giudiziarie, inutile girarci attorno, di Silvio Berlusconi. Alcuni dei passaggi che tu già anticipavi: la sinistra mi porta davanti a un plotone di esecuzione e brinda, infischiandosene di tutto, hanno unilateralmente deciso che il voto dovesse essere palese. Oggi brindano perché sono riusciti a portare un avversario, anzi loro dicono un nemico, di fronte al loro plotone di esecuzione. È un giorno che avevano aspettato da 20 anni e sono addirittura euforici. E poi ancora giorno amaro di lutto per la democrazia, sempre Silvio Berlusconi e sempre parlando a piazza del plebiscito. Noi siamo qui in un giorno amaro, un giorno di lutto per la democrazia. Una magistratura di estrema sinistra si è data come missione quella di essere la via giudiziaria al socialismo, far sì che la sinistra possa ritornare al potere e così regalare di nuovo al popolo una vera e completa democrazia. Allora, così Silvio Berlusconi, ampiamente prevedibile quanto avrebbe dichiarato. Elisabetta Fiorito, la discussione al Senato tutto sommato si è svolta secondo, diciamo, i binari e i copioni che immaginavamo, non ci sono state molte sorprese, però aggiornaci tu, perché noi nel frattempo eravamo anche in diretta. Prego Betta. Allora, intanto dobbiamo dire che le senatrici di Forza Italia hanno scelto questo look in nero, no? Perché è un giorno di lutto per la democrazia, almeno questa è la tesi. Look ovviamente. Prada. Sì, un look nero Prada, sì. Dai, vai avanti. Allora, Anna Maria Bernini, che ha parlato per Forza Italia, ha usato addirittura Brecht per descrivere quello che per i forzisti è la rinuncia alla democrazia: prima tocca ad alcuni, poi ad altri, poi verranno a prendere sì, anche noi. Tutto ciò dopo che aveva parlato però Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, che ha accusato Berlusconi di essere un delinquente abituale e recidivo, che è stato in Parlamento per architettare reati e incrementare il proprio patrimonio personale, e poi ha detto: non sentiremo la sua mancanza perché ha lo 0,01% di presenza in aula. Toni invece molto più pacati, quelli che ha usato Luigi Zanda, che ha detto comunque sì alla decadenza perché è un dovere verso la legalità. Poi è stata una Luigi Zanda del PD. Ecco, fermati un attimo Elisabetta, perché era importante questa ricognizione, però è importante, hanno ragione gli ascoltatori che ce lo chiedono, anche ricordare perché arriva questa decadenza. Allora, abbiamo fatto ascoltare giustamente la difesa e anche le accuse che muove Silvio Berlusconi alla magistratura e al suo rapporto con il centro-sinistra. Raffaella Calandra, il motivo per cui si arriva a questa decadenza, c'è una sentenza definitiva, e poi dopo il GR che cosa capiterà adesso da un punto di vista giudiziario? Intanto si arriva a questa decadenza perché il 2 agosto Silvio Berlusconi è stato condannato in via definitiva per il processo Mediaset per frode fiscale. Una condanna a 4 anni, arrivata appunto in via definitiva dopo 12 anni di inchieste. Una condanna a 4 anni di cui però sconterà soltanto un anno perché gli altri 3 sono coperti da indulto. Ha ancora degli altri procedimenti aperti Berlusconi, che sono innanzitutto il processo Ruby, per cui è stato già condannato in primo grado a 7 anni per concussione e prostituzione minorile, e poi inizierà a breve il processo a Napoli per la compravendita dei senatori, la vicenda De Gregorio. Perché sono importanti anche queste due vicende ancora aperte? Perché nel caso in cui Berlusconi dovesse ricevere un'altra condanna definitiva, ad esempio nel processo Ruby, nel giro di un anno, più o meno un anno e mezzo, si potrà arrivare anche al verdetto della Cassazione, se dovesse essere condannato in via definitiva anche una seconda volta, perderebbe anche i benefici dell'indulto che ha avuto invece per il processo Mediaset, e a quel punto gli anni da scontare non sarebbero più soltanto 1 ma diventerebbero 4. Perché la legge sull'indulto prevede che tu non sia recidivo sui reati, esatto. Nel senso, ti do un beneficio, vale per tutti, vale per tutti, ti do un beneficio di legge se tu non compi più un reato, se no ti becchi anche la parte che ti ho in qualche modo condonato e beneficiato. Allora, adesso c'è il GR. Scusate, vedo molti messaggi, questa l'ho premesso, è una puntata particolare, diamo anche in diretta quello che sta capitando al Senato, tutto si può dire, uno può pensare che abbia ragione Berlusconi, che invece abbia torto Berlusconi, ma è sicuramente una notizia, è la notizia forse più importante della settimana e forse anche del mese, da questo punto di vista, quindi questo lasciatelo giudicare a noi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Alle 18:09 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Berisoni, in una puntata in cui abbiamo raccontato in diretta il voto del Senato, la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi, ma anche l'anticipazione del Consiglio dei Ministri delle 15, ne parleremo tra un attimo. Dunque, vedo tantissimi sms, la battuta sul nero Prada, vabbè, farei la stessa battuta sul Kashmir dal centro-sinistra, non vi preoccupate, non mi sembra questo il punto dopo le notizie che abbiamo letto oggi sull'inchiesta per esempio della Guardia di Finanza dei PM sulla Regione Piemonte, però ognuno si può preoccupare di quello che vuole. Invece vorrei adesso capire che cosa capita da un punto di vista giudiziario, sempre con Raffaella Calandra, che ci ha chiarito prima gli altri procedimenti in corso, che cosa capita in caso di ulteriore condanna, perché la legge prevede che i benefici che tu hai sull'indulto poi decadano se vieni condannato per un altro reato, cioè devi scontare anche gli anni che ti erano stati condonati. A me sembra che ci sia molta confusione in questo momento su cosa che succederà adesso a Silvio Berlusconi. Ci sono due fronti, c'è la sua storia, diciamo, da uomo politico, e c'è la sua storia personale da imputato nei vari processi. Da uomo politico, ora che è decaduto da senatore, in base alla legge Severino che ha portato a questa decadenza, dovrà stare per 6 anni fuori da Palazzo Madama, fuori da Montecitorio, fuori dal Parlamento. Contemporaneamente però la pena accessoria Sì, legge Severino, per dovere di informazione, votata a suo tempo da tutti, perché fu votata da centrodestra e centrosinistra. Prego. Esattamente, sì. Legge Severino, su cui il centrodestra più volte ha detto che avrebbe voluto portarla all'attenzione della Corte Costituzionale per la retroattività, appunto, la legge che stabilisce la decadenza appunto di chi ha una pena superiore ai 2 anni. Berlusconi, come abbiamo detto prima, è stato condannato a 4 anni. Quindi da una parte la legge Severino con i 6 anni fuori dal Parlamento, dall'altra parte, insieme alla sentenza, alla condanna del processo Mediaset, Berlusconi ha avuto come pena accessoria 2 anni di interdizione dai pubblici uffici. Sono però al momento in Corte d'Appello, perché la Cassazione ad agosto aveva stabilito che la Corte d'Appello dovesse ricalcolare, inizialmente aveva stabilito 5 anni. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito 2 anni, ci sarà un ricorso in Cassazione ancora, quindi presumibilmente la prossima primavera diventerà definitivo, praticamente ormai certo, la conferma dei 2 anni di interdizione dai pubblici uffici. A quel punto Berlusconi, oltre al seggio da senatore e quindi anche all'immunità parlamentare che quello comporta, perderà, tanto per cominciare, il titolo di cavaliere, e vabbè, ma perderà anche tutta una serie di libertà anche personali, perché nel momento in cui un'udienza dovrà stabilire se andrà ai servizi sociali o anche eventualmente ai domiciliari, per qualsiasi cosa lui voglia fare tutto dovrà passare attraverso il vaglio di un magistrato, quindi anche la possibilità per lui eventualmente di fare campagna elettorale. Sì, questo è quello che prevede la legge, voglio essere molto chiaro su questo, cioè tutti, ne abbiamo parlato molte volte anche noi, perché ai domiciliari sono finiti anche personaggi coinvolti in inchieste a cavallo tra finanza e cronaca giudiziaria. Questo prevede la legge sui domiciliari, cioè devi chiedere permesso al magistrato per qualunque tuo spostamento, avvisare. Anche per l'affido ai servizi sociali, che sembra essere al momento l'ipotesi più probabile, più plausibile. Una ultima battuta sull'arresto, perché da quello che ricordo io, sopra i 70 anni per questi reati non è previsto l'arresto, però ricordo l'avvocato Coppi. Proprio ieri l'avvocato Coppi ha ricordato come in realtà ci sono stati precedenti in cui anche di persone, diciamo anche ultra settantenni, arrestate anche al carcere duro. Quindi anche se i suoi difensori hanno bollato questa come una provocazione, l'ipotesi dell'arresto in realtà in teoria esiste, se una procura chiedesse l'arresto, se un giudice lo avallasse, se, insomma, ci sono tanti se, però è un'ipotesi che al momento esiste. Sì, anche se l'ipotesi più forte, come tu ricordavi, al momento sembra quella dei servizi sociali, o in seconda istanza quella degli... Sono due cose diverse, perché l'arresto eventualmente ci sarebbe per gli altri procedimenti per cui è ancora aperti, o anche per lo stesso Mediaset, la vedo difficile, per gli altri procedimenti aperti, tra cui non ho ricordato quello che comincerà a breve ancora a Milano per l'ipotesi di corruzione dei testimoni del processo Ruby. Allora, grazie a Raffaella Calandra, poi i nostri GR e gli altri programmi vi aggiorneranno su tutto il resto, ma oggi arriverà ancora poco. Adesso però vorrei tenere assieme, un po' difficile, il compito, la grosse coalizione tedesca, la small coalizione italiana, perché in Italia si è ristretta la coalizione, e anche il Consiglio dei Ministri. Allora, ultime novità dal Consiglio dei Ministri. Il ministro Saccomanni ha detto che il governo ha mantenuto l'impegno, l'ho detto pochi minuti fa, ha mantenuto l'impegno sulla cancellazione della seconda rata dell'IMU. Per l'IMU trovati 2 miliardi e 150 milioni per cancellare la seconda rata, compresi gli immobili strumentali agricoli. La copertura dell'IMU è praticamente quasi tutta a carico del sistema bancario. Un terzo viene coperto dagli anticipi sull'imposizione del risparmio amministrato, 2/3 da anticipi IRES e IRAP, che sono anticipi a fronte di un aumento delle aliquote per il sistema bancario che avverrà nel 2014. E poi via libera anche la rivalutazione delle quote dalla Banca d'Italia, da cui il governo si attende circa 1,5 miliardi di gettito, valgono di più, quindi saranno più tassate. Per la copertura della seconda rata dell'IMU viene coperta con un'imposizione accresciuta sulle banche, ha spiegato Saccomanni, una tantum, con un anticipo cospicuo vicino al 130% per le banche, che però è accettabile anche dal punto di vista della normativa dell'Unione Europea. Quindi non c'è nessun collegamento diretto tra l'operazione, diciamo, di copertura del rinvio della rata dell'IMU, perché questa viene coperta, anzi, con una imposizione accresciuta sulle banche, una tantum, perché del resto una tantum è anche l'abolizione della rata dell'IMU, e con un anticipo cospicuo, insomma, la cui percentuale comunque sarà vicina al 130%, che però appunto è accettabile anche dal punto di vista della normativa europea, in quanto appunto collegata ad una imposta la cui natura viene fissata anch'essa adesso. Allora, grazie per averci raggiunto in collegamento, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera a voi. E grazie anche al direttore del settimanale tedesco Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo, che è italiano, ma dirige appunto uno dei principali, dei più importanti settimanali in Germania. Buonasera anche a te, direttore. Buonasera. Direttore, io ti avevo chiamato per parlare della Germania, della Grosse Koalition, però un primo commento non posso non chiederlo, a doppia veste di direttore di un settimanale tedesco, ma anche di italiano, sulla visione della coalizione del governo Letta. A me non interessa in questo momento il caso Berlusconi, mi interessa il caso governo Letta. Come viene letta e vista in Germania? Viene visto come una persona seria, e comunque, guardi, non c'è nessuno in Germania che abbia il coraggio di fare una prognosi su quello che succederà in Italia. Dobbiamo preoccuparci o essere contenti? Ma forse è un fatto che deriva da certe esperienze. Quindi nessuno ha il coraggio di fare un'analisi, una scommessa sul futuro della tenuta del governo Letta? Ma guardi, quelli che si intendono un po' dell'Italia ovviamente aspettano anche l'8 dicembre per vedere anche chi... Le primarie del PD, certo. Esatto, per vedere chi poi... è il candidato con le più grandi possibilità. Allora, Guido Gentili, la tenuta, ripeto, non mi interessa un commento sulla decadenza di Berlusconi, vi sono altri programmi su questo, però la tenuta del governo Letta, il CDM appunto ha trovato le risorse tramite l'anticipo delle tasse delle banche, chiamiamolo così, per la copertura IMU. Letta si è detto sereno, si è fatta chiarezza. Ma è interessante quanto diceva il direttore del Die Zeit, che nessuno in Germania osa fare previsioni. Beh sì, in Germania è anche difficile farle in Italia, perché oggi Letta ha detto che il governo è più forte, lo ritiene più forte dopo che c'è stato, dopo il voto di ieri sera sulla legge di stabilità e il passaggio all'opposizione di Forza Italia, però oggi, diciamo, è una giornata storica, perché da un lato segna la decadenza di Berlusconi come senatore, ma dall'altro apre una fase del tutto nuova e piena di incognite. Primo, perché lo stesso Berlusconi resterà comunque in campo, e quindi su questo nessuno può dare, diciamo, non può fare una previsione attendibile sulle prossime mosse. E il secondo motivo è quello che avete ricordato anche voi prima, e cioè la situazione nel PD. Oggi il governo, diciamo, è a prevalente, ormai definito, non è più quello delle larghe intese, ma è a prevalente trazione PD, e il PD si appresta, diciamo, a incoronare Renzi come prossimo leader del partito, e Renzi ha già promesso che dal 9 dicembre farà la sua personale verifica sul governo Letta, e che il governo Letta dovrà ascoltare quelle che saranno le indicazioni che verranno dal partito. Quindi mi pare che sia una fase del tutto nuova. Ecco, Guido, venendo invece al Consiglio dei Ministri, all'IMU, cosa significa una tantum? Una tantum è l'anticipo a cui sono state obbligate le banche. Mi riferisco a alcuni ascoltatori che chiedono cosa vuol dire l'anticipo, l'imposizione accresciuta, l'anticipo vicino al 130% per quello che riguarda le anticipazioni fiscali delle banche. Una tantum è anche l'IMU, sì, perché dall'anno prossimo ci sarà la IUC, e lì tutti i giochi andranno rifatti. Per ora, per quest'anno, nemmeno la seconda rata IMU si pagherà, perché è stata trovata la copertura. Ti chiedo, alla luce anche dell'appello di cui si è fatto portavoce del Sole 24 Ore, l'editoriale di Roberto Napoletano, usate i soldi di risparmio della spending review e della lotta all'evasione fiscale per ridurre la tassazione in busta paga. La forza politica per fare questo, che sarebbe veramente un punto di svolta invece che andare avanti a tirare avanti, ce l'ha o no il governo Letta nella sua nuova versione, diciamo, ridotta quanto a spettro parlamentare? Ma i primi segnali, stando alle dichiarazioni di Letta per primo, ma anche di oggi del sottosegretario Baretta ad esempio, vanno in direzione di un passaggio della legge di stabilità dal Senato ora alla Camera, un passaggio importante perché verrebbe, diciamo, certificato questa possibilità di legare direttamente per legge, e costituendo un fondo apposito direttamente per legge, i ricavi dalla lotta all'evasione fiscale, ad esempio, e della spending review, direttamente alla riduzione del costo del lavoro, che sappiamo che al decurto fiscale sul costo del lavoro, che sappiamo che è una manovra che fin qui si è rivelata assolutamente insufficiente. Quindi la volontà politica c'è in questo momento. Bisognerà vedere come questo, diciamo, passaggio maturerà alla Camera, non sarà certamente una passeggiata, e quindi occorrerà capire se diciamo, il nuovo equilibrio che si è creato consentirà di scrivere una parola chiara, perché questo, diciamo, vorrei sottolineare. Qui non si tratta più, diciamo, di fare delle enunciazioni di principio, si tratta di agire con provvedimenti chiari. Mi riferisco per esempio alla spending review che noi abbiamo invocato da tantissimo tempo, ma non ci aspettiamo, però, visto anche il cronoprogramma della commissione Cottarelli, non ci aspettiamo che ci possa dare dei risultati da qui a 10 giorni, perché i risultati arriveranno nel 2014 e l'incidenza, diciamo, della riduzione delle spese e l'aumento dei risparmi del 2014 andrà e sarà tutta da verificare, e da questo punto di vista ci penserà la Commissione europea, diciamo, a guardare con grande attenzione alle mosse del governo italiano. Allora, direttore Di Lorenzo, invece concentriamoci anche sulla Germania, perché nella notte è arrivato il governo di larghe intese, no? Quindi Angela Merkel e i socialdemocratici. I punti dell'accordo, se ho ben capito, riguardano anche l'introduzione di un salario minimo, delle pensioni più generosi, poi c'è il pedaggio autostradale per i non residenti, per gli stranieri, e la possibilità di doppia cittadinanza. Ora, a noi chiaramente interessa se la Germania avrà, con questa nuova coalizione, una posizione un po' più morbida rispetto a un rigore che rischia di diventare rigor mortis per i paesi dell'area euro, e rischia di aumentare gli anti-europeisti, gli anti-euro, da un lato, e spenderà un po' di più, visto la forza della sua economia, quindi riequilibrando, come chiede il Fondo Monetario, la Casa Bianca, l'Unione Europea, riequilibrando il mercato interno dell'euro. Direttore? Io credo di sì. Intanto perché la cancelliera oggi, nella conferenza stampa col quale lei, il capo dei socialdemocratici e il capo del Partito Democristiano Bavarese hanno presentato il contratto di coalizione, una delle prime cose ha detto che tutti e tre i partiti puntano molto alla stabilizzazione dell'Unione Europea e soprattutto con questo all'euro, alla stabilità dell'euro. Questo secondo me è stato un segnale politico importante. Poi c'è il Partito Socialdemocratico che tradizionalmente è molto più duttile nel confronto delle richieste dei paesi del Sud Europa. Unica cosa che vorrei farle osservare è che anche in Germania c'è un pericolo di populismo, cioè più gli aiuti sono incondizionati, vero, più c'è il pericolo di nuove forze politiche. Una per un pelo già entrava nel Parlamento alle elezioni del 22 settembre, che è arrivata credo al 4,7%, mancava il 0,3% per entrare. Che anche la signora Merkel ha da rispettare certi equilibri di politica interna molto importanti in Germania. Siamo l'unico paese che non ha grande partito estremista o populista in Parlamento. si immagini un grande partito in Parlamento in Germania in questo momento, cosa vorrebbe dire per il resto dell'Europa? Chiaro, però lei si attende, è vero che se poi si spinge troppo da un lato si fomenta un anti-europeismo anche tedesco, però lei si attende che proprio la componente socialdemocratica dentro la grossa coalizione tedesca porti a un atteggiamento un po' più conciliante sia sul rigore. Io penso che anche la signora Merkel, lei sì, intanto deve aiutarmi con l'italiano che sono 40 anni. No, parla benissimo, meglio di me, si figuri, prego. Ma si immagino, come si dice spauracchio? Non aveva più voglia di fare lo spauracchio europeo, questo l'aveva fatto intendere già prima delle elezioni. Questa potrebbe essere una buona notizia. Attenzione ai falsi miti, non è che adesso improvvisamente molliamo Maastricht, il 3% e quant'altro, però insomma un'interpretazione un po' più flessibile e l'esigenza di puntare oltre che sul rigore anche sulla crescita la chiediamo da 2 anni. A mio avviso la prima cosa cui mettere in mano sarebbe il fiscal compact, perché è una follia, così come in passato lo firmarono l'allora Presidente del Consiglio Berlusconi e l'allora Ministro Tremonti su richiesta della Germania per far partire gli aiuti della Banca Centrale Europea, però per noi vuol dire manovre da 35 miliardi, 40 miliardi ogni anno per 20 anni, facciamo prima diciamo a spararci su questo. Grazie Guido Gentili da un lato, grazie al direttore di Zeit Giovanni Di Lorenzo. Da Sebastiano Berisoni a voi in ascolto l'auguro di una buona serata, però prima devo leggere un messaggio. Mi date save me, perché c'è un messaggio bellissimo che secondo me fotografa il paese fin il passaggio che il paese sta avendo in questo momento. Scrive un ascoltatore: sono su un treno fermo al buio e in ritardo, questo paese non ce la può fare se continua così. Guardi, a me dispiace per lei chiaramente, ma siamo tutti su un treno fermo al buio e in ritardo, questo è il paese purtroppo. Vediamo se si riesce a muovere il treno, uscire dal buio e recuperare il ritardo. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.